Le 14 in punto. Giovedì 9 dicembre del 2010, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, Visionari, il consueto appuntamento settimanale con il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15, tutte le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info. Tanti gli ospiti di quest'oggi, tanto per cambiare, con diversi registi, mettiamoci allora subito in collegamento, un attimo di pazienza. Noi Massimiliano Carbodi, regista del documentario RCL, ridotte capacità lavorative. Ciao. Ciao, un saluto a tutti e a tutte sulla radio. Non è un documentario, è un film. È un film. Vabbè, insomma, alle movenze anche del documentario. Sì, no, era una battuta che fa Paolo nel film. Sì, è vero, è vero. Allora, intanto io... Non ti avevo mai chiamato Massimiliano. Neanche io. E poi vedo sul tuo curriculum che hai una lunga esperienza radiofonica e te lo confermo. Sì, sì, una nota radio della capitale. Chi ha scritto il curriculum non se l'è sentita di metterla, ma insomma, diciamo, noi ce la rivendichiamo. Quindi. Come stai? Molto bene, molto bene. Allora, per chi ci ascolta, diciamo subito il tema del tuo film. Allora, è la storia di una troupe che si presenta a Pomigliano per fare dei sopralluoghi e vuole trovare un modo per raccontare quello che sta succedendo in quei giorni a Pomigliano. E questa troupe gira per il paese, incontra una serie di personaggi che noi abbiamo ritenuto personaggi chiave, cioè il sindaco del paese, il parroco Don Peppino Gambardella, che è un parroco che ha partecipato in questi ultimi anni a tutte le vertenze gestite dai sindacati, dagli operai dello stabilimento Fiat. Accostato da Paolo Rossi a un teologo della liberazione. Sì, esatto. Sì, diciamo che Pomigliano, se possiamo subito parlare di Don Peppino Gambardella, si presenta un po' come il paese di Don Peppino e di Peppone e Don Camillo al contrario. Il sindaco è di destra, mentre il parroco ha delle posizioni che potrebbero considerarsi molto più a sinistra, appunto, della politica nazionale. Sì. Incontriamo uno dei sindacalisti che ha gestito la vertenza e poi finiamo a cena con un po' di famiglie di operai in una masseria che a Pomigliano non mancano, anzi il paese è tutto costruito, diciamo così, intorno a delle masserie, un paese a vocazione rurale che poi con l'avvento dell'industrializzazione ha avuto questo passaggio brusco, drastico verso la fabbrica, quindi dal campo alla catena di montaggio. Massimo, io partirei dalla parola d'ordine iniziale, surrealismo civile. Beh, anche perché nasce dalla testa di Alessandro Di Rienzo, che è un altro vecchia conoscenza di Radio Onda Rossa. Surrealismo civile, sì, perché il film che cosa si fonda su cosa? Si fonda su un'inchiesta fatta per 2 anni, un lavoro giornalistico molto puntuale fatto da Alessandro su Pomigliano. Ha seguito prima la missione produttiva che non veniva assegnata allo stabilimento e poi ha seguito tutte le fasi del referendum. Quando abbiamo deciso invece di trasformare questo lavoro giornalistico in un'altra cosa, parlandone insieme con Paolo e Alessandro, ci siamo resi conto che onestamente, anzi abbiamo trovato conferma del fatto che onestamente raccontare oggi la realtà e raccontare quello che succede, per farlo serve un'operazione, diciamo, quasi di surreale, bisogna attingere al surreale, perché la realtà spesso si presenta proprio così, come surreale. Ci supera, sì. Sì, è civile, perché l'impegno civile è quello che ci interessava in qualche modo trasmettere a questo esperimento. Oh, io intanto ti faccio i complimenti, l'ho visto l'altro giorno. Mi fa molto piacere. E, diciamo che anche uno dei punti di forza, oltre a questo taglio appunto relativo al surrealismo civile, è nel, oltre alla presenza di Paolo Rossi, anche nella scelta degli interlocutori, devo dire, riempiono la scena, insomma. Guarda, il film è stato girato come un reality. Intanto questo era il mio scorno, insomma, quello che mi incuriosiva, perché in questi ultimi anni ho avuto modo di lavorare intanto con le compagnie teatrali dentro le carceri, e sì, quindi lavorare in assenza di attenzione, cioè l'attore non pensava a me, e quindi ho avuto modo di sperimentare questo modo di raccontare quello che succedeva senza che nessuno pensasse di dover essere bello davanti alla telecamera. Sì. E poi ho lavorato nei reality, perché poi bisogna campare. E mi interessava portare queste cose dentro il linguaggio cinematografico. La fortuna di avere Paolo Rossi, che ha una grandissima capacità di gestire la scena, di stare bene con gli altri dentro l'inquadratura, ha fatto sì che poi riuscissimo a raccontare in questa maniera. Quindi il film è girato in 5 giorni. Mm-hmm. Siamo arrivati giovedì 15 luglio a Pomigliano e siamo andati via il 22. Senti, lo scheletro era abbastanza determinato, avete molto improvvisato anche sul campo? Allora, lo scheletro, la struttura, gli incontri, diciamo la parte più documentaristica, ecco, sì, diciamo gli incontri, le 3 interviste con i 3 personaggi e poi l'incontro con alcuni operai della Fiat, era presente già nel soggetto. Sì. Mentre tutte le scene di fiction, chiamiamole così, tutte le scene che abbiamo girato poi sul tetto di questo albergo, che poi è il tetto dell'albergo dove dormivamo sostanzialmente, sono invece scritte velocemente la notte. Mm-hmm. E le scene in strada, l'incontro con questa signora davanti a un ufficio di Equitalia è assolutamente reale. Sì. È un momento di reality completo. Siamo passati là davanti, avevamo pensato di passare là davanti, questa signora si è fermata e è nata questa situazione di scambio, secondo me molto divertente, anche molto interessante, quindi l'abbiamo assolutamente montata. Oh, vivere questa situazione di Pomigliano da Roma e poi lavorarci sul campo e sentire direttamente e vedere con i propri occhi, ecco, che differenze hai riscontrato rispetto all'approccio? Intanto la differenza è completa, una sorta di rivoluzione copernicana. Noi ormai siamo abituati, tutti noi, anche gli addetti ai lavori, a misurare la realtà seguendo servizi televisivi più o meno lunghi, seguendo trasmissioni più o meno politically correct. Noi volevamo rovesciare il meccanismo, noi tutti quelli che hanno partecipato al film. Paolo lo dice anche, questa non è Anno Zero, non è Ballarò, dice, no? Questo meccanismo per cui in televisione abbiamo 4-5 volti noti che discutono per tutta la sera e i protagonisti reali delle vicende, delle vertenze, sono tenuti al guinzaglio in collegamenti sempre più strumentali a favorire il dibattito in studio, no? Sì. Ecco, noi volevamo rovesciare completamente il meccanismo e spero che in parte ci siamo riusciti. Mm-hmm. Oh, da domani nelle sale, ecco, come funzionerà la distribuzione? Intanto vi supplico di andare al cinema, perché è distribuito dalla Iris Film, che è una piccola distribuzione che però si è innamorata del progetto e l'ha, sì, conosciamo, voluto, determinata, è stata veramente fino adesso una grande... un grande sostegno, e noi ci crediamo insomma anche al loro lavoro, è stato molto buono. Usciamo in 6 città, una sala per città. A Roma usciamo al Roma, a Viale Trastevere. E curioso poi, perché è una scelta fatta dal distributore. Sì. Ha preferito quella sala, l'ha ritenuta più idonea. Noi speriamo di rimanere in piedi, perché ovviamente usciamo con un film assolutamente non natalizio, non c'è il panettone, non c'è nessuna delle dinamiche natalizie. Speriamo invece di rimanere in piedi e di portarlo insomma il più avanti possibile. Per in rete, per saperne di più, altre insomma, se ci sono siti o beh, c'è, intanto c'è il sito del film, che sì, è rcl-ilfilm.com. Okay. Poi siamo presenti sui social network, insomma abbiamo lavorato in questi mesi a cercare di fare la promozione più virale possibile, anche perché è quella che onestamente ci potevamo permettere. Diciamo che Torino, siamo stati a Torino invitati da Gianni Amelio, eh, che sì, è stato molto insomma carino, gentile, attento a questo film, ce l'ha, l'ha voluto assolutamente a Torino. Questo ci ha aiutato molto perché ha dato spazio al film, ne ha fatto parlare. A Torino è andata molto bene, le sale erano, sono state sempre piene, questo ci ha fatto molto piacere. Bene Massimo, allora in bocca al lupo. Grazie. E speriamo di sentirci presto. Ok, perfetto, a presto. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao caro. Massimiliano Carboni, regista del film RCL, ridotte capacità lavorative. Proseguiamo. Sono con noi Amedeo D'Adamo e Nevina Satta, regista e produttrice del film The Wrong Ends. Pronto? Ciao carissimo! Come va? Ciao! Ciao Amedeo, come stai? Bene, bene, e tu? Tutto bene. Allora, io ti dico subito, grazie di essere qui, complimenti per il tuo film. Oh, grazie, molto grazie. Siamo contentissimi di essere di nuovo con te, è veramente un onore. Poi il gruppo di visionari è uno zoccolo duro e noi siamo sempre presenti. Benissimo. Alla vostra chiamata. Allora, la presentazione, l'anteprima mondiale c'è stata sul Mona Cinema Film Festival. Raccontaci un po' come è nato questo film. Guarda, Wrong Ends, rispondo io perché Amedeo ha ovviamente parla prevalentemente in inglese, quindi sì, ci stiamo traducendo in un'unica entità, okay? Poi dopo tanti anni e mesi di collaborazione è quasi surreale la nostra stessa unione, quindi siamo assolutamente dentro il surrealismo civile, coniugale nel nostro caso. Allora, ma guarda, l'idea è nata, il film è nato da una serie di esperienze. Amedeo era a Berkeley a studiare filosofia. Il muro di Berlino è crollato e lui si trovava in una serie di contesti studenteschi, e la reazione che Berkeley ha avuto al crollo del muro di Berlino, questa apertura di infinite possibilità, è stata molto particolare, l'ha colpito al punto da ispirare la scena d'apertura del film. Per dirla brevemente, volevamo raccontare certo. La possibilità di come dire, rappresentare al cinema la vita di degli attivisti, di quelli che si impegnano e dedicano la propria esistenza ad una passione, che è quella di essere coinvolti socialmente e lottare per cambiare, per trasformare il mondo e renderlo in qualche modo in un luogo, in un posto più gradevole, più tollerabile, più aperto al dialogo. E in questo senso Wrong Ends è diventata un po' una sfida tra di noi. Amedeo poi viene da una famiglia impegnata nel civil rights movement, sua mamma è sudafricana ed è scappata da Sudafrica durante l'apartheid, per cui ovviamente anche nel suo DNA in qualche modo c'è questa necessità di fare una vera e propria diciamo protesta civile in senso appunto costruttivo. Allora questa idea di fare una commedia, però ovviamente nasce dall'esigenza di non fare solo un film che faccia, come dire, venire il senso di colpa, ma che possa avere una sua spinta positiva di ottimismo, certo. E appunto raccontare l'attivismo da un punto di vista positivo. Nevina, il punto di partenza, il vostro assunto da cui siete partiti è che 500 persone nel mondo detengono la metà della ricchezza del pianeta. Sì, abbiamo voluto utilizzare delle stime che quando il film è iniziato erano ovviamente corrette, poi ahimè la storia ci ha un po' superato in questo, nel senso che le nuove statistiche sono ancora più drammatiche. Comunque sì, l'idea era quella di enfatizzare questo divario, no, della distribuzione della ricchezza mondiale per sostenere quanto il mondo in fondo si stia accontentando di accettare questo stato di cose e non faccia granché per modificarlo. La situazione che nel presente viviamo è ovviamente diversa da quella dell'89. Il film vuole essere un po' un racconto della genesi del movimento no global e del movimento neoconservatore che ha influenzato non solo la vita sociale e la politica americana. Quando abbiamo iniziato il film eravamo in piena era Bush, poi abbiamo attraversato, anche impegnandoci direttamente nella campagna di Obama, per poi arrivare oggi, come dire, all'uscita del film qui in Italia, non a caso, perché questa necessità di dire basta a tutta una serie di diseguaglianze eccetera è diventata come dire una spinta che ci spinge sempre più a voler trasformare un po' quello che è un subire le situazioni invece un diventarne attori e un modificare la storia in prima persona. Sì. Amedeo ha sempre avuto come eroe Herbert Marcuse, no, il filosofo che parlava continuamente di come dire surrealismo civile proprio per questa sua anche connessione con Berkeley, e quindi ci sembrava importante anche oggi in un'Italia che è non solo vede gli studenti in cima alle torri e la protesta sociale dilagare, volevamo anche dare però un segno di un ottimismo, cioè di una possibilità di credere non solo attraverso ciò che è negativo e la distruzione di ciò che non va più bene, ma la possibilità di pensare a ciò che possa essere sostituito, a una nuova, a nuove forme, no, di costruzione. Diciamo l'altro giorno l'Italia ha bisogno di una Berkeley, no? sì. Nevina, nel rappresentare le due diverse anime protagoniste di questa rivolta, da una parte c'è, come dicevi prima, ci sono i neoconservatori con una violenza organizzata e un culto della personalità spinti al massimo. Assolutamente sì, devo dirti che il protagonista della parte diciamo negativa, il cattivo, il capo dei cattivi che è Tony, abbiamo avuto, come dire, abbiamo avuto molte fonti di ispirazione. È chiaro che quando Amedeo lo scriveva pensava soprattutto a Bush, sia padre che figlio, che poi ha appunto caratterizzato per decenni la politica americana, ma anche ad alcuni personaggi dell'estrema sinistra americana che poi sono confluiti in qualche modo in una sorta di logica persuasiva, cambiando colore, cambiando partito. Ovviamente dal punto di vista dell'Italia, soprattutto quando abbiamo dovuto affrontare la traduzione, come dire, la prima fonte di ispirazione era Mussolini, però anche, come immaginiamo, anche negli ultimi anni abbiamo avuto un grande protagonista come dire, della politica italiana, il nostro Presidente del Consiglio, che ci ha dato molta fonte di ispirazione, no? Con questo look molto sicuro, molto appunto con una logica persuasiva che passa attraverso i media, non a caso diciamo c'è questa occupazione delle TV di strada da parte dei neoconservatori che con la violenza però iniziano a dominare i mass media. È tutta una serie di passaggi che ovviamente in tono quasi parodistico, comico, come dire, assumono una leggerezza, no, certo, nel film, ma di fatto, ahimè, come accadeva nella commedia all'italiana del grande maestro Monicelli che ci ha lasciato da poco, molte volte dietro a un sorriso si camuffa, si nasconde una tragica e amara verità, che è quella di un dramma sociale che non riesce a trovare una via di uscita quasi, no? A proposito del tono parodistico, ecco, c'è anche il ricorso piacevole che conferisce sicuramente leggerezza e poi partecipazione, perché è un film che si lascia seguire piacevolmente, il ricorso all'animazione e a un tono scanzonato anche. Guarda, l'idea era quella di raccontare soprattutto con il cartoon i momenti di vera violenza, quello proprio in cui inizia a vedersi il sangue. Allora, da un lato, come dire, volevamo non trasformare il film in un mezzo manga, ma volevamo allo stesso tempo raccontare questo lavoro, no, della storia del cartoon, che un po' appartiene anche a Berkeley. Berkeley è una città che è completamente tappezzata e decorata di murales che hanno un po' colori super saturi e che danno questo quasi tono cartoon alla città stessa nella vita quotidiana. Sì. Poi questo lavoro anche con gli ispiratori racconto della violenza che sia in qualche modo che crea un meccanismo di allontanamento dalla violenza vera, però ce la faccia vedere appunto un po' come accade nel manga giapponese, no? Come estrema eppure presente. Allora anche lì volevamo raccontarla ma non documentarla, giocarci un po'. Mm-hmm. Come dicevate anche durante la presentazione, Berkeley in America è stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza fondamentale, ma anche a livello globale, ecco, il punto di partenza di molti movimenti sia culturali che politici. Assolutamente sì, guarda, Berkeley, che come dire, in Italia conosciamo soprattutto come l'eccellente centro universitario, in realtà è stato ed è tuttora il luogo in cui sono nati in America e nel mondo i più grossi movimenti di pensiero e di rivoluzione, nel senso che pensiamo veramente da Greenpeace al movimento veganiano fino al, ovviamente, soprattutto le Black Panthers, no? E il Free Speech Movement, pensa anche al lavoro fatto rispetto al global warming. Lo stesso inizio del movimento No Global ha avuto le prime discussioni a Berkeley, perché è una città in qualche senso surreale, nel senso che è una città dove tutti quelli che non riescono a trovare un loro luogo di dibattito e di conversazione vanno a Berkeley e trovano lì invece un terreno fertile per aprire la propria posizione al confronto. In questo senso non potevamo che ambientare il film a Berkeley, perché davvero parte della ricerca che Amedeo prima di tutto sta spingendo da tanti anni è quella di capire quale forma possa avere un cinema della speranza. Mm-hmm. Quindi non un cinema, diciamo, di sinistra che sia basato o sulla paura o sul senso di colpa, ma pensavamo proprio a un cinema che sia capace, usciti dalla sala, di dare a chi guarda quel film, eccetera, un senso di possibilità come possibile traduzione in azione, poi non appunto puro compatimento e annullamento dell'azione a ridosso di un senso di colpa che non si realizza. In questo senso anche il bisogno di dare degli spazi, come dicevi tu, un po' più leggeri nasceva proprio da questo bisogno di, come dire, caricare la vita di colori sovrattonali, no? Cioè davvero circondiamoci di elementi positivi e non solo di tutto il negativo che già ci assilla e ci ossessiona, no? Certo. Nevina, allora c'è stata sul Mona l'anteprima mondiale, The Wrong Ends, avremo possibilità anche di vederlo prossimamente qui in Italia, e poi se ci sono anche riferimenti internet. Sì, guarda, allora, di sicuro consigliamo di seguire lo sviluppo della distribuzione, che in questo momento è un po' ancora in negoziazione, perché stiamo risolvendo alcune questioni di cambi di contratto con il sindacato degli attori. In America il film è stato realizzato come coproduzione tra Italia e Stati Uniti, quindi abbiamo alcune norme da rispettare negli Stati Uniti prima di dare il lancio alla distribuzione. Sì. Comunque sicuramente thewrongendsthemovie.com è il primo riferimento. Stiamo lanciando anche, insomma, la pagina Facebook, eccetera, per essere contattabili. È chiaro che vorremmo che il film venisse visto, abbiamo pensato a una sorta di grassroots campaign attraverso università, centri e luoghi di aggregazione giovanile, perché ci sembra un messaggio importante da distribuire non solo appunto negli Stati Uniti ma anche nel resto d'Europa, e speriamo di potervi insomma al più presto dare notizia anche di una certo. distribuzione. Allora a questo punto io vi auguro in bocca al lupo, vi abbraccio e speriamo di sentirci presto. Ciao Nevina, grazie, ciao Amedeo. Grazie, molto grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. A presto. Amedeo D'Adamo e Nevina Satta, regista e produttrice del film The Wrong Hands. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, noi si va avanti. Siamo in collegamento con Monica Repetto per parlare con lei della piattaforma digitale On The Docs. Pronto, ci sei? Eccoci, buongiorno. Intanto ben ritrovata. Grazie. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, questo progetto che ci interessa particolarmente, dici un po'. Allora, On The Docs è una piattaforma di distribuzione internazionale sì. per produzioni italiane indipendenti, quindi un gruppo di produttori di contenuti per la televisione, documentari italiani sì. si sono riuniti e abbiamo pensato di cercare di colmare in qualche maniera il grande vuoto della distribuzione, che è diciamo la strozzatura dove ci areniamo anche quando dopo grande fatica siamo riusciti a produrre un documentario, a produrre certo. un'opera qui in Italia. Certo, perché insomma l'avvento del digitale ha abbassato i costi per quanto riguarda la produzione, molti riescono a fare film veramente a costo zero, ma il problema è sempre quello di farli vedere poi. Della diffusione, esatto. Sì. Quindi ci sono moltissimi documentari in particolare che sono stati prodotti, che sono andati anche a festival, che quindi hanno hanno avuto in qualche maniera o possono avere una loro visibilità, ma in circuiti molto limitati, come possono essere quelli del festival o quelle di proiezioni che vengono richieste in tutta Italia, sì. ma non riescono ad avere una diffusione più vasta, sia a livello nazionale che fuori dai confini nazionali, quindi all'estero. Con On The Docs noi cerchiamo, attraverso una piattaforma online, quindi attraverso la rete, attraverso il web, di rendere visibili sia in italiano che in lingua inglese, quindi con i sottotitoli in inglese, una selezione di documentari. Noi speriamo di riuscire a raccogliere il meglio insomma della produzione italiana indipendente. Senti, per sommi capi, come tecnicamente come funziona? Siamo partiti, l'inaugurazione della piattaforma è stata proprio il 3 novembre, quindi a poco più di un mese sì. Di vita, e siamo partiti con lo streaming, quindi okay. è possibile la visione dal computer, dall'iPhone o anche dall'iPad, quindi anche dagli smartphone o dai nuovi tablet che consentono di vedere ad un'ottima qualità i documentari, i lavori, insomma gli audiovisivi, mm-hmm. e quindi li vedi in streaming in questa fase. Sì. Stiamo lavorando anche per riuscire nel 2011, quindi entro l'anno prossimo, ad avere anche il download. Per ora quanti lavori state diffondendo? Guarda, attualmente una cinquantina, sì. E contiamo di stiamo ricevendo dal momento del lancio il 3 di novembre durante il Festival del Cinema di Roma, stiamo ricevendo moltissime richieste DVD che ci vengono proposti per la visione, quindi per la selezione. Contiamo di inserire almeno 10 nuovi film al mese. Senti, a proposito di selezione, ecco, su quali canali vi state muovendo per farvi conoscere? Guarda, innanzitutto abbiamo pensato di abbiamo diffuso chiaramente la notizia dell'esistenza della piattaforma, sì. Alle varie associazioni di categoria, quindi dai documentaristi italiani ai 100 autori, eccetera eccetera. Poi stiamo lavorando più capillarmente proprio sul territorio attraverso i festival, quindi presentazioni della piattaforma al Festival di Roma, al Festival di Torino, al Festival dei Popoli a Firenze, all'interno degli Italian Doc Screenings. Sì. Continueremo di nuovo su Torino e ad Arcipelago a Roma e così via su tutti i festival del calendario italiano. E contemporaneamente sì. Lavoriamo anche sull'estero, quindi partecipazione ai mercati a Cannes, a Berlino. Già siamo stati a Cannes ad aprile, ad ottobre, e continueremo anche il prossimo anno. Ecco, e per quanto riguarda la scelta dei titoli, su cosa vi basate? Guarda, abbiamo un comitato selezionatore che fa parte, diciamo, di vari esponenti del team di produttori e distributori che fa parte di On the Docs, e quindi è una decisione democratica, insomma, siamo lì. E devo dire che è anche abbastanza semplice, nel senso che veramente molti dei documentari che meritano di essere visti sono stati già selezionati ai festival e poi sono poi passati nel nulla, insomma. Quindi da questo punto di vista in qualche modo è anche semplice, sono gli stessi selezionatori dei festival che ce li segnalano. Bene, allora, come riferimenti diamo il vostro sito internet? Certo, www.onthedocs.it. Benissimo. Docs scritto come i docs del porto, come le banchine del porto. D-O-C-K-S. Esatto. Bene, allora, speriamo di risentirci presto per novità e in bocca al lupo. Ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo anche a voi. Ciao Monica. Ciao. Ciao ciao. Monica Repetto per quanto riguarda la piattaforma digitale On the Docs. Ben ritrovato anche a Nicola Falcinella, in questo caso in veste di autore di un libro. Dici un po', Nicola, intanto ciao. Sì, buongiorno a tutti, ciao. Come stai? Bene, sono una splendida giornata sul lago di Garda. Oh. Sembrava inverno fino a poche ore fa e ora è primavera. Cosa succede sul lago di Garda? C'è questo film festival del Garda che tra le varie cose ospita una retrospettiva dedicata ad Agnès Varda, e per la quale ho collaborato alla retrospettiva e ho scritto questo libro che si chiama Agnès Varda, Cinema senza detto né legge, pubblicato dalle mani, che è uscito in libreria da pochi giorni e che appunto torna a parlare di questa regista francese molto importante e un po' dimenticata, un po' trascurata, diciamo. Facciamo un percorso a ritroso, partiamo dalla retrospettiva che hai organizzato al festival e quali, parlando dei titoli che hai scelto, che hai selezionato. Allora, la retrospettiva del Garda prevede 8 lungometraggi, sì, e 8 cortometraggi realizzati dal 1954 al 2008 dalla Varda. sono appunto 8 corti divisi in 2 programmi, perché la, la regista ha realizzato tantissimi titoli senza fare troppa distinzione tra di formato, tra lungometraggi, documentari, cortometraggi. Sì. Ha dato un po' a tutti la stessa importanza, comunque a tutti ha dedicato la stessa passione, l'ha fatte, non ci sono dei lavori fatti con la mano sinistra, anche delle cose che ha fatto su commissione comunque hanno sempre un tocco d'autore, hanno tutti un valore. E niente, nella scelta degli 8 lungometraggi abbiamo messo un po' quelli che non si possono, della ventina di lunghi che ha fatto, quelli che non si possono perdere, cominciando da ieri sera l'inaugurazione, che tra l'altro c'era a Brescia, c'era il cinema pieno, c'era Le Placide Agnès, che è il suo ultimo finora film, che è un'autobiografia in immagini, è un film abbastanza molto bello e abbastanza indefinibile, perché è un documentario ma non è soltanto un documentario, in cui lei attinge dai suoi film, dalle immagini dei suoi film, come se fossero un album di famiglia, un album fotografico, e attraverso le sue opere racconta una vita avventurosa, e che appunto abbraccia, lei è nata nel 1928, quindi racconta più che della seconda metà del Novecento, cioè dagli anni 30 in poi. Lei partecipa alla Nouvelle Vague, va a Cuba nel periodo della rivoluzione, va in Cina negli anni 50, insomma sta negli Stati Uniti a fine anni 60, fa un documentario sulle Black Panthers, fa un film che si chiama Lions, Love and Lies, mentre uccidono Robert Kennedy. Insomma, è sempre un po' nel punto giusto al momento giusto. Mm-hmm. E quindi questo film, che è fatto un po' come se fosse un puzzle, e ripercorre questa vita appassionante. Non so, tanto per restare tra gli aneddoti, era amica di Jim Morrison e fu tra le persone che parteciparono ai funerali di Jim Morrison a Parigi, quindi questo per dire quanto fosse comunque sempre dentro i movimenti, le situazioni che c'erano. Mm-hmm. E quindi questo per l'apertura. Poi tra poco vado a presentare Les Glaneurs e la Glaneuse, che è un documentario del 2000 molto attuale, in cui lei utilizzò per la prima volta, e è molto a proposito, il digitale, perché le camerine digitali le consentirono di andare molto vicino alle persone, cioè di filmare senza mediazioni, un mondo che si pensava scomparso e che invece è molto attuale, quello della spigolatura. La spigolatura era la tradizione di andare nei campi e recuperare il grano non raccolto, i frutti non raccolti, i cibi, i prodotti della terra che erano rimasti per vari motivi sul terreno. Una cosa che in epoca di benessere era stata un po' dimenticata e che ora è ritornata d'attualità, e lei accomuna questa tradizione della spigolatura, che è stata celebrata anche da grandi pittori. Lei prende per esempio un quadro di Millet al Museo d'Orsay, e l'attualizza anche con le persone che vanno a cercare tra i rifiuti, a cercare i cibi scartati. Mm-hmm. E oltre a questo riferimento alla vita quotidiana, c'è anche un po' lei che il titolo è gli spigolatori e la spigolatrice, come se fosse lei la spigolatrice, e quindi anche c'è un sottotesto di lei guarda come spigolatrice di immagini, quindi di riutilizzare delle immagini che altri avrebbero scartato. Avrebbero scartato, e quindi anche qui c'è il suo sguardo un po' trasversale, sempre un po' laterale, che da un punto di vista suo personale di raccontare quello che altri non raccontano. Mm-hmm. E poi tra i suoi film della retrospettiva ci sono Senza tetto né legge, che è il suo film più celebre, che nell'85 vinse il Leone d'Oro a Venezia, c'è Sandrine Bonnaire quasi agli esordi nei panni di una ragazza appunto senza tetto né legge, quindi molto molto libera, una giovane che ha fuggito da un impiego in ufficio per spinta soltanto dall'ansia di libertà. Finirà male, però questo è un desiderio di libertà, di non avere vincoli, un po' di fuggire dalla società. Poi c'è naturalmente La Pointe Courte, che è il suo primo film, che fu girato nel 55, quasi da autodidatta, in maniera indipendente, facendo lavorare la troupe in una cooperativa. I protagonisti erano Philippe Noiret e Sylvia Montfort, e il montatore Alain René, e poi Henri Colpi, entrambi che poi ebbero una carriera importante come registi. Ed è un film che ha anticipato la Nouvelle Vague come modalità produttive e anche come libertà formale. Mm-hmm. E poi tra i film c'è ovviamente Cleo dalle 5 alle 7, che è altro suo grande successo, è un film del 61 che secondo me è uno dei più belli del periodo del cinema francese della Nouvelle Vague, e c'è Jacques de Nantes, che è uno dei tre film che Agnès Varda ha dedicato a suo marito Jacques Demy, con il quale ha vissuto per più di 30 anni, hanno avuto insieme un figlio Mathieu, hanno cresciuto l'altra figlia della Varda, Rosalie Varda. E insomma, una vita facendo lo stesso mestiere, ma facendolo in modi diversi, perché dal punto di vista poetico il mondo di Demy, i mondi di Varda sono molto distanti, però questo non ha impedito a Varda di dedicare ben tre film a Jacques Demy, alla sua opera. Jacques de Nantes è dedicato all'infanzia di Demy a Nantes e al suo sogno di diventare cineasta, quindi proprio il cinema come incanto, come passione, come mondo della fantasia. Oh Nicola, arrivando al libro, Agnès Varda, Cinema senza tetto né legge, un omaggio al suo film più importante, più conosciuto, ma anche un omaggio a una cineasta ribelle. Sì, sì, il titolo è cioè, un po' cita il suo film più conosciuto, è un ammiccamento, nel senso che comunque questa etichetta di senza tetto né legge sta bene anche al cinema suo di cineasta ribelle, ma nel senso di libera, sempre un po' fuori dagli schemi. Ho detto prima che è sempre stata nel momento in cui avvenivano le cose e nel posto giusto, però poi ha sempre fatto uno scarto, non si è mai lasciata etichettare in qualche modo. Era quando gli altri cercavano di catalogarla, lei era già da un'altra parte. e poi anche proprio nello stile, ha fatto tanti film diversi tra loro, c'è sempre un marchio personale che può essere l'autoironia, che è un certo modo di guardare le cose, anche un riferirsi ai fatti della sua vita privata, anche il fatto che spesso il suo cinema si alimenta dei film precedenti, magari con delle citazioni, con dei riferimenti, con degli approfondimenti. Quindi in questo si può individuare una costante nella sua carriera. Dall'altra parte, stilisticamente, i suoi film sono davvero molto molto molto diversi tra l'uno dall'altro. Nicola, su quali materiali ti sei basato e come hai strutturato il lavoro? Allora, il libro è composto da alcuni saggi miei, che sono circa la metà del volume, e poi che si concentrano. Uno, cioè il principale al titolo del libro, appunto, si concentra sulle costanti stilistiche e tematiche nell'opera della Varda. E poi uno sulle Plage d'Agnès, che è il suo film per ora ultimo, la sua autobiografia, e quindi era un modo anche per raccontare una vita avventurosa di quella che è senza dubbio la donna regista più importante, quella che ha avuto la carriera più lunga, quella che è stata molto premiata, che ha comunque lasciato il segno più importante tra tutte le donne registe fino ad ora. E poi ci sono ho fatto un saggio sui cortometraggi, anche sul fatto che lei all'inizio diceva di non essere cinefila, di essere andata pochissimo al cinema. Ha dichiarato di aver visto, prima di fare il primo film, soltanto 9-10 lungometraggi al massimo, e non le erano piaciuti tranne alcuni di Marcel Carnet. E poi con il matrimonio con Demic, l'amicizia con René e con gli altri coetanei, invece ha sviluppato una passione con il cinema che l'ha portata a fare tanti film che parlavano del cinema, compreso un film del 94 sui 100 anni del cinema. E quindi io mi sono molto divertito a scriverlo, perché comunque il punto era la Varda, cinefila tardiva, cinefila un po' suo malgrado. E poi un'altra cosa che mi sono divertito a scrivere è stata quella sulle influenze che ha avuto sui cineasti successivi, soprattutto secondo me sui fratelli Dardenne, su Bruno Dumont, soprattutto il film Senza tetto né legge, che ha influenzato Rosetta, che ha influenzato L'Umanité, ha influenzato La vita di e poi un compagno di strada che è Godard, che con il quale è sempre stato un rapporto d'amicizia e poi di distacco. E Godard tra l'altro ha recitato in un cortometraggio di Agnès Varda, e si sono sempre citati a vicenda, per esempio nell'ultimo film di Godard, Film Socialisme. C'è dei pochi registi della sua epoca, ha inserito Agnès Varda e ha messo una sequenza, cioè alcune immagini delle Bonheur, che è il terzo film di Agnès Varda. E poi ci sono altri saggi, c'è un saggio di Flavio Vergerio sulla cosiddetta Rive Gauche della Nouvelle Vague, cioè l'anima più di sinistra della Nouvelle Vague, quella di René, Marker e così, quindi, e Varda, che comunque erano amici, lavoravano insieme. Marker figura anche nelle Plage d'Agnès. E poi c'è un saggio di Ermanno Comuzzo sulle musiche nei film di Varda, quindi l'utilizzo sia di brani classici sia di brani originali, e anche il fatto che Varda ha scritto i testi di alcune canzoni che figurano nei suoi film, e anche i testi di alcune canzoni per i film di Demi, soprattutto di Lola. E a proposito di Demi, ci sono due saggi, che uno di Carpani. Pronto? Andato via Nicola, vi ho perso la comunicazione, proviamo proseguendo e poi proviamo nuovamente a contattarlo. Allora Nicola, io volevo chiederti, per chi volesse saperne di più in rete, dove può cercare per il tuo libro? Allora, in rete si può andare nel sito del Festival del Garda, che è filmfestivaldelgarda.it, oppure basta cercare il titolo, cioè credo che con Agnès Varda Cinema senza detto né legge compari subito. Sì, e poi c'è nelle librerie, quantomeno nelle principali, nelle librerie specializzate in cinema e spettacolo. E niente. Bene, allora in bocca al lupo, un abbraccio e ci sentiamo presto, Nicola. Un abbraccio, a presto, buon ciao. Pomeriggio. Ciao. Siamo in collegamento con Hevi Dilara, direttrice della terza edizione del Festival del Cinema Curdo a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 9 all'11 dicembre. Ben ritrovata. Ciao, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene? Sì, mi sentite? Io sto camminando. tutto bene. E sì. Mi fa piacere sentirti che tu sei una conoscenza di oltre 10 anni fa. Anche a me, quando ho scoperto, è vero, anche a me mi ha fatto grande piacere. Sì, quando facemmo un viaggio in Kurdistan con il treno della pace. Allora, terza edizione di questo piccolo festival, allora raccontaci un po', quante opere presenterete al Cinema Aquila? Allora, presenteremo 12 opere, tra sì. Corti e lunghimetraggi e documentari e docu-fiction, che insieme tutto quanto. Tutti questi film sono in anteprima in Italia. Sì. E noi siamo fieri anche per questa cosa. ovviamente lo sapete, cioè il cinema per noi, per il popolo curdo, che significato ha? Cioè, quanto difficoltà abbiamo per girare dei film curdi, sui curdi, per i curdi. Per questo motivo, come uno strumento, il popolo curdo, ma anche quelli che vedono, hanno visto e vedranno anche il cinema curdo, i film curdi, che questi film, questi documentari, questi corti sono uno strumento, cioè un linguaggio diverso di quello, cioè della denuncia delle violazioni che vive il nostro popolo. Sì. Per questo motivo noi ci teniamo molto di organizzare ovviamente questi festival, cioè tramite musica, tramite arte, anche perché il popolo curdo purtroppo non è riconosciuto, diciamo, nel livello opinione pubblica italiana, come, sai, qui sono i curdi, dove è il Kurdistan, qual è l'arte curda, qual è la musica curda, la lingua curda, cioè tante volte io mi incontro con le persone per strada, mi dicono di dove sei, dico sono curda, e mi dicono turca, mi dicono Afghanistan, Pakistan, tipo, sai, certo. Siamo dal cielo, però comunque siamo fieri di riusciti arrivare ad oggi con tutte le nostre difficoltà, con tutte le violazioni che ancora subiamo come il popolo, di riuscire a trasmettere e far vedere che esiste, cioè la resistenza del popolo curdo fa esistere la cultura, il cinema e il linguaggio del popolo curdo. Non so altro se vuole, io ovviamente aspettiamo tutti. No, io volevo chiederti, sì, ecco. Volevo chiederti come avete fatto, come, su cosa vi siete basati per scegliere i titoli che proponete al festival? Ci sono arrivati tanti film, sia dal Kurdistan, sia dall'Europa, sia dall'America addirittura. E noi abbiamo scelto questi film, i titoli che sono tanti, adesso non vi metto, non vi elenco, però certo. Abbiamo scelto in base di queste tre giornate, anche sì. Perché non dimentichiamo che domani è la giornata internazionale dei diritti umani. Sì. Diritti umani generalmente e diritti umani per il popolo curdo sono violati. C'è con l'argomento bambini, l'argomento donna, l'argomento essere umano, e abbiamo scelto i film che proprio rappresentano questo argomento, rappresentano il diritto umano, rappresentano la violazione contro le donne, rappresentano le violazioni contro i bambini e contro un territorio, ma nel frattempo anche delle favole, delle storie, cante storie del popolo curdo che sono tramandati grazie alla lingua curda, tramandati fino ad oggi. C'è un film per esempio che è bellissimo, cantano dei signori anziani le storie del popolo curdo che è stato premiato in America, in Francia, e oggi proprio fanno vedere anche quel film, domani faranno vedere nel festival di Babele, si chiama, che è un festival organizzato da Cagliaritani in Sardegna, e lo stesso film facciamo vedere noi oggi, loro domani, noi oggi, per dirvi che non è soltanto, diciamo, come ho detto all'inizio, il cinema per noi è un strumento di un linguaggio forte, visiva. La gente che non è andato come te, per esempio sei stato in Kurdistan, Contrero della Pace, io mi auguro che ci possano essere altri treni che così importanti e belli, treni per la pace per il Kurdistan. E tra l'altro neanche ci fecero arrivare dove dovevamo arrivare, infatti, ci bloccarono con i carri armati, va bene. Mi ricordo che poi avevate portato un po' della mia terra in un vasetto. Sì, sì. Le persone, che dei compagni che non hanno avuto la possibilità di andare in quelle terre bellissime, fra l'altro, della Mesopotamia, antica Mesopotamia, sì, sì, Tigre sì, Eufrate, sì. Di vedere tramite questi film, cioè un altro nostro scopo è questo, cioè certo. Conoscere i costumi, usanze, la cultura e anche le violazioni che vive un popolo. Allora Evi, io ricordo allora gli appuntamenti, la terza edizione del Festival del Cinema Curdo a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 9 all'11 dicembre, e un abbraccio e in bocca al lupo. Crepi, posso dire una cosa? Come no, che certo. oggi noi, con diversi personaggi del mondo del cinema italiano, ma anche con registi italiani, facciamo dalle 17 in poi facciamo un dibattito sul diritto allo CAC, che come uno può avere il diritto di girare, o come anche cinema strumento di diritto, e domani ci saranno anche tante altre persone nel mondo politico e anche associazionismo, le persone che si battono per i diritti umani, domani faremo dalle 18 alle 20, prima dei film, sì. Di proiezione dei film, facciamo un dibattito sulla tematica dei diritti umani, e aspetto tutti i compagni, aspetto tutti. Benissimo. Ecco. Grazie. Allora, un abbraccio, a presto. Grazie. Ciao, Mary. Ciao. Evi Dilara, direttrice della terza edizione del Festival del Cinema Curdo, ce la facciamo ancora per un collegamento. Thank you. siamo riusciti anche a contattare Giulia Merenda, regista del documentario Come Posso, ben trovata. Buongiorno, ciao. Tutto bene? Sì, bene, grazie. Allora, un documentario che parla di una disegnatrice italiana, Cecilia Capuana, al suo apice negli anni 70. Dici un po' di questa figura di artista. Diciamo che lei pubblica su quasi tutti tutte le riviste importanti, Alter Linus, Comic Art, dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, quindi sì. Insomma, diciamo raggiunge il suo apice con Metal Hurlant in Francia, con la pubblicazione di varie sue tavole, di varie storie, e possiamo dire con certezza che è stata l'unica italiana a essere pubblicata su Metal Hurlant, e anche su diciamo, la costola femminista che si chiamava Anana, di cui vennero pubblicati 8 numeri sempre in Francia, per cui ebbe un momento insomma di grande notorietà, perché Metal Hurlant, ricordiamolo, era la rivista d'avanguardia, quella rivoluzionaria proprio del fumetto, quella che aveva tra i disegnatori Mebius, insomma tra gli scrittori, gli sceneggiatori, diciamo, delle storie a fumetti, Jodorowsky, Dionne, che era il mecenate della rivista. E lei poi dall'85 smette di fare fumetti, diventa una artista, fa ritratti, fa quadri, insomma una pittrice. E un po' ci si è dimenticati di lei, e io l'ho conosciuta così casualmente, ho scoperto questo mondo meraviglioso, perché il suo segno non si dimentica, proprio perché c'ha questo background di artista quasi neorinascimentale, per cui ogni tavola è come se fosse un quadro, insomma, di grande così impatto, di grande potenza. Nel suo percorso artistico, l'ha portata anche a toccare il cinema, tra le sue conoscenze, e compare anche nel documentario, c'è Monicelli. Sì, ancora prima lei venne chiamata da Bernardino Zapponi, che era lo sceneggiatore di Fellini, proprio per scrivere, che voleva in qualche modo avere in lei, diciamo, il suo Fellini, e quindi insieme fecero delle storie a fumetti proprio per Metal Hurlant, e poi in quel periodo a Roma conobbe Mario Monicelli, poi da lì cominciò una lunga amicizia che sfociò in un ritratto che lei fece, che Monicelli teneva in grande considerazione, perché a suo dire, anche in questo lungo colloquio che c'è nel documentario tra lui e Cecilia Capuana, proprio perché era riuscito a fotografare, come anche se insomma da pittrice, una nota malinconica che lui bastonava, era burbero, era sempre critico, appunto diceva che pochi l'avevano notato, forse Cecilia è una fotografia famosa sua, ma quindi in qualche modo si vede nel documentario questa stima reciproca, questa grande unità di intenti, di comunione in vari momenti di questa intervista che si svolge nel centro sociale Angelo Mai, quello che stava a Monti, sì, e che lo stesso Monicelli non conosceva, per cui proprio nella sua Monti è stato molto bello che sono riuscita in qualche modo a fargli conoscere una realtà che ignorava, ecco, questo meraviglioso centro sociale. L'importanza di Cecilia è anche nel fatto che di fumettiste donne non ce n'erano. Beh, all'epoca sì, diciamo che era molto maschile il fumetto, insomma. Sì, infatti sempre nel documentario c'è in parallelo anche il punto di vista, diciamo, di un suo compagno di strada che dall'Italia, anche lui va in Francia, che è Tanino Liberatore. Lui stesso dice più volte che era un mondo molto maschile, che si scopriva anche questa vena erotica, diciamo, importante, che fino a quel momento non si poteva esprimere così liberamente, e che forse oggi, nonostante appunto la trasgressione è diventata la regola, però ancora non, cioè che non si riesce più a trasmettere con tanta efficacia, e appunto Sicilia era stata, come dire, il rovescio di quella medaglia, con invece la sua cifra che era sempre un po' ironica. C'è anche dell'erotismo nelle tavole di Sicilia, ma con quel, appunto, con un punto di vista sempre divertente, ironico, anche nella rappresentazione della figura della donna, ecco. E dei corpi. Sì, sì, sì. Oh, Giulia, quello che ha fatto la stagione d'oro del fumetto, soprattutto in Italia, cioè il periodo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è anche legato al fatto che nel fumetto si concentrò quella spinta di ribellione che attraversava tutto il mondo giovanile e non solo nel nostro paese. Sì, infatti. Li riassumeva quello spirito, lo riassumeva il fumetto. Sì, lo riassumeva forse meglio del cinema in quel momento. Sì. Con più forza. Non è casuale che poi, che sono da quei mondi, che, per esempio, di Moebius, no? Poi veniva fuori la Blade Runner, che era le cui scenografie appunto vennero disegnate da Moebius. Quindi sì, la ribellione, ma anche nuove strade, certo, nuove, certo. Ecco, nuove visioni. Io per esempio devo dire che il mio percorso è stato segnato dalla presenza e dal tratto, dall'immaginario di Andrea Pazienza, per dire. Sì, infatti questo è un po' quello di tutti, diciamo, i quarantenni, no? Che, o anche di più, che hanno appunto si sono divertiti e formati con le tavole di Pazienza. Cecilia è proprio l'altra faccia, perché anche lei è molto divertente come Pazienza, anche lei ha moltissime trovate fantastiche ma anche realistiche, no? Perché poi parla pure della realtà delle donne, addirittura in un suo fumetto, uno dei primi, lei racconta la storia di una donna che non vuole avere figli, che però in un'Italia in cui non si parlava di contraccezione, non era tutto così come oggi, e non si poteva fare un aborto, questa donna, che abortisce nelle mani di una mammana, finisce morta e viene arrestata morta. Ecco, questa è una classica cifra di la capuana, cioè di essere amara e caustica, un po' come Pazienza. Oh, il tuo documentario è anche, io ti faccio i complimenti, mi è piaciuto molto, e anche visivamente è molto legato all'universo fumetto. Beh sì, insomma un po' perché proprio dovevo confrontarmi con le tavole, riprendere le tavole, sì, e sì. Quindi c'era un lavoro lungo proprio sulla costruzione delle storie che sono sulle tavole, è un po' perché proprio l'ho fatto un po' a pezzetti, seguendo la storia di Cecilia, ho cercato appunto di fare proprio un excursus sul fumetto, e quindi con inserti da Zap Comic, che era la rivista dove pubblicava Crumb in America, a Frigidaire, alle nostre riviste, appunto a quella francese, insomma è un po', come dire, un taglio veloce un po' su tutta la linea del racconto, sì, ecco, sì, non sono, sì. Per quanto riguarda invece la distribuzione, come cosa c'è in vista? Anche il tuo lavoro, parlavamo prima di The Wrong Answer, è stato presentato sul Mona Cinema Film Festival, e ti chiedo se c'è questa possibilità di vederlo in sala, e poi se in internet, se ci sono riferimenti. Per ora, no, cioè, su YouTube c'è un promo di 10 minuti che appunto è Come Posso, ed è legato anche al sito della casa di produzione indipendente, che si chiama iFrame, che è una, appunto, una società di donne che lavorano insieme, quindi c'è anche questa caratteristica delle donne, con una produttrice che fa anche il montaggio, fa le riprese, si chiama Silvia Giulietti, e la possibilità invece di vedere il documentario ci sarà dal da febbraio-marzo in poi con CG on video, quindi in DVD nelle librerie. Avremo modo di riparlarne con te. Senti, c'è anche, mi parlavi anche di un inedito, non so se se ne può parlare, di Cecilia. Beh no, c'è l'idea di allegare un'antologia dei suoi fumetti più importanti, e poiché ha prodotto tantissimo, diverse centinaia di pagine appunto di storie con tavole, sì, lei in questa sua grande produzione ci saranno alcuni inediti in Italia e ci sarà probabilmente proprio un inedito tout court di un fumetto breve suo, appunto a taglio un po' erotico, per l'appunto, visto che parlavamo di questo approccio. Bene. Allora Giulia, io ti ringrazio, ti auguro anche in bocca al lupo per il percorso del tuo lavoro e ci sentiamo presto. Il lupo, grazie mille. A presto, ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora, non ce la facciamo per quanto riguarda la nostra Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per la rassegna A qualcuno piace Billy, con il punto esclamativo dedicato al cinema di Billy Wilder sicuramente. Cominciata ieri, andrà avanti fino al 12 dicembre, comunque tutte le informazioni, anche il programma, lo trovate sul sito del Cineclub Alphaville.